ti possono essere utili. Brecche da bracco. Avanti bracco. Senta, Roberto, se c'è qualcuno che sta chiamando. C'è qualcuno che sta chiamando? Sì. Avanti bracco. Un piccolo contore sarà una stazione spagnola, ma lo sento la Spagna, per favore. Ma la spagnola, lasciamo perdere, la spagnola. Piccolo contore è una stazione spagnola. Chi sei? Avanti, parla italiano, dai, già capiamo l'italiano. Non è la Spagna? Vabbè, comunque un satellite su... ha superato il Brasile. Ehi, a tra poco appareu. Se domani volete vederla, domani alle 20.40 c'è il picco, poco quando sta facendo l'imbrunire, si vede benissimo, proprio bella bella si vede. Adesso tra poco, mi credo, cioè, più o meno tra qualche minuto dovrebbe apparire. Molto veloce, mi ha fatto. Beh, ma mi sta copiando o no? Aspetta che abbiamo parlato sopra, c'è qualcuno che sta parlando, dice che è spagnolo. Avanti per il controllo. Vale, vale. Molto grazie, si ripete il drone e poi tutti i tuoi componenti, molto grazie. Adelante qua, operatore Roberto, nord della Sardegna, il tuo QTH per favore, amico. Il mio QTH è la Sardegna. Questo mi sembra un blef. Cosa dici lui? Perché parla mezzo italiano, mezzo spagnolo, vabbè dai. Ok, Giovanni, avanti a te. C'è io, Luca e Riccardino. Avanti a te il mic. Poco fa mi stava ballando il, come si chiama, il monitor, diciamo la frequenza. Là. Non so perché. E volevo dire, dice mi telefonate e non mi hai telefonato, comunque non ha importanza perché intanto non c'ho tempo, sto terminando un quadro e quindi si può immaginare, non riesco a concluderlo, porca miseria, ma è girato veramente. Quindi stasera ce la devo fare per forza. Stavo dicendo, ciao, a proposito Riccardino e l'altro amico, mi sono dimenticato. Comunque diciamo, se più tardi non. Se è disponibile facciamo una prova, ma fra un'oretta però, prima no. Ieri sera sono stato lì di un'ora e mezza, diciamo, in 144 con gli amici, con Walter e altri radioamatori di Albero e di Olbia, eccetera, eccetera, no? E a mezzanotte, quelli non finiscono più, si mettono a mezzanotte addirittura, vi puoi immaginare. E a un certo punto non ce la facevo più, io se continuo la moglie mi ammazza. Vabbè, comunque, ascolta, io sono in ascolto, mi fa piacere sentirvi. Eventualmente, Robè, fra un'oretta, se ti interessa, facciamo qualche prova, adesso qua. Non lo so, mi sembra un po' tardino. Adesso passo una mezz'oretta, non so se tra un'ora ci sono ancora. Dai. Se mi senti qua in radio vuol dire che sono qua, se no lo facciamo un altro momento. Sinceramente mi sono dimenticato di chiamarti perché sono entrato poi qua su 27, ci siamo messi a chiacchierare, proprio mi è passato di mente, scusami perché mi sono dimenticato. Se riesci a venire un po' prima di un'ora probabilmente mi trovi ancora, se no non lo so, vediamo, se no lo facciamo domani la prova, ma se vedo che funziona tutto bene, che problemi ci sono? No, sta funzionando tutto alla perfezione, ho dato l'impressione, intendiamoci. Ma dato un antennino, le antenne mie diciamo non valgono a nulla praticamente, non ho messo a parte, mi ha dato un'antenna IS0 Sierra Whisky, bellissima, diciamo magnetica addirittura, se la metto sul termosifone funziona a bomba, anche se è un po' all'interno, no? Adesso l'ho messa sotterrato perché c'è la come si chiama, chiusa, no? E quello mi sta fregando di mettere l'antenna sul tetto, ho detto per il momento mi viene molto difficile comunque, no? Però ormai ho risolto il problema, risolto il problema, cioè Walter mi ha risolto il problema, già lo sai, c'era il cavolo di attacco che non arriva a nulla, ha perso un sacco di tempo perché qua ci è venuto 5-6 volte, stavamo provando a destra e a sinistra, comunque il problema l'abbiamo risolto, sono andato a dire la verità, dice ti faccio vedere la mia dove abito, in modo che un giorno che vuoi vieni con Roberto, stanno mettendo un'antenna paurosa, cioè la spaventate, più grande della tua piscina praticamente, no? È una cosa incredibile. Vabbè Robè, comunque io per ora faccio sei greca, saluto Riccardino, l'altro amico mi sono dimenticato come si chiama, salutoni comunque, eventualmente sono in ascolto praticamente, dai, almeno fino a una certa ora vi ascolto, dai. A te il micro, Robè. Sì, l'amico è Luca, te lo rilancio che passerà a Riccardino, avanti Luca per Giovanni. Ciao Giovanni, salutoni, ben sentito. Vai. Ok, ciao Bracco, mi hai ascoltato e alle prossime, tanto come ho detto, un po' anche più in 27, come ti ho detto prima, che già ci fa piacere ascoltarti. È naturale, io la 27 non me la ricordo, non me la dimentico mai, stato tranquilli. Non me la dimentico perché se devi fare una chiacchierata è meglio la 27 che sul resto. La gente vede le qua, dice, no, siamo i migliori in 27. Ok, adesso lasciamo un attimino di bianco e vediamo se qualcuno vuole entrare sul canale 10. Attenzione, 10, chi vuole entrare? Non c'è nessuno, ok. Una domanda a Luca. Tu cosa c'hai per fare quello che mi hai chiesto, Luca? No, non è per me, ho detto Roberto, ho formato un computer, siccome dentro c'è il programma, però il PC non avvia, rimane bloccato. Secondo te è talmente incasinato che non riesce neanche ad avviare a Windows. Ma chi te l'ha dato, se me lo puoi dire? Perché siccome gli era già fatto delle operazioni mio nipote a una persona due o tre volte ci si blocca per il problema del computer. No, Robè, non lo so, un ragazzo mi ha portato che questo qua è un meccanico, gli fa i lavori, non lo so di chi è. Non ho capito di chi è. Vabbè, dai, non si può dire, probabilmente è la stessa cosa. Non lo so. E dice che ci vogliono 120 euro per installare il programma. Però lo sai così, Luca, di quelle cose ce ne sono tante di programmi, ci sono tante. Allora ne abbiamo comprato uno di questi così giocattolini, dai, abbiamo pagato per 150 euro, ci hanno dato tutti gli adattatori, tutti i cavi, però è un giocattolino, non so cosa dovete fare, se deve fare cose di un certo livello. Non lo so, però stai parlando arabo, non so cosa dirti, non so proprio di chi è. Allora ha portato questo ragazzo che gli fa i lavori alle macchine, poi l'altro non so. Ma aspetta un attimino, questo ragazzo è quello del padrone del computer che lavora in quest'altra officina e gli fa i lavori alle macchine, così è? No, questo ragazzo gli porta la macchina al tipo del computer, c'è il meccanico. No, quest'altra persona che ce l'aveva uguale a mio nipote, parliamo di tempo fa, ogni tanto li sente di fare il computer, ogni volta lo riporta qua in officina e deve fare tutto qua, ma è un programma diciamo di diagnosi, proprio le cose elementari fa, non è che puoi fare più di tante cose complicate, non le puoi fare, però diciamo per azzerare qualche spia e cagattine del genere qualcosa riesce a fare. Non so cosa dirti. Mi canto tra un po', vado a fare la insulina a mamma, riprendete. Ok, Riccardino, ci sei ancora? Positivo. Bella radio comunque, sempre bella, finalmente ci sentiamo forte e chiaro. E tieni presente, non sei amplificata, aspetta un pochettino con quel giocattolino che ti porta Fabrizio. Lo so, che penso vada bene l'MV5 per il Kenwood. Ma non nominarlo troppo spesso, quello dice il K al limite. Ok, l'ho già detto, c'è troppa gente che non è piacevole, dai, finiamo qua il discorso. L'MB+5 gli ha fatto le connessioni e tutto, lui l'avrà già provato a casa sua sicuramente, e ha in più la possibilità con l'MB+5 rispetto al 4, se tutti stanno utilizzando il 4, di regolare i tuning. Naturalmente bisogna fare delle prove, ti aiuto io per quello. Ok, sì, allora ciao. Adesso mi è arrivato un messaggio, stavo dicendo che fra un po' è visibile il satellite. Aspetta un attimino, guarda che l'ho visto poco fa. Praticamente è sul Sahara occidentale. Aspetta, perché dovrà passare alle 21:28 passa. Tra 3 minuti. Sì, aspetta, dopo tra un paio di minuti lo guarda, dal 21:28 alle 21:34 passa. Oggi passa di più del solito, 6 minuti dura il passaggio. È buono, non vedo l'ora di vederlo domani, che c'è il che quando sta tramontando. Sì, alle 20:40 domani. Allora, il picco comunque oggi ce l'abbiamo alle 21:31. Adelante, compagno dei Scucci d'Italia che va chiamando. Adelante, attention please, do you copy Italy? Vabbè, rimanete in corso. Non lo so, forse sarà calata la propagazione o non lo so, vabbè. Quello di prima, qualche dubbio ce l'avevo. Ok, e questa zona arrivava forte, come si chiama, Riccardo? Sì, arrivava forte, sembrava qui vicino. Se vedi, oggi c'è un bel di propagazione nel nord Italia. C'era questo che mi ha detto, ma stai scherzando? Cos'è, uno scherzo? Sembra che sei qui vicino. Perché gli ho detto che avevo un'antenna nuova. E gli ho detto, ha detto, sembravo lì dalle sue parti. E infatti quando c'è propagazione è bella, bella aperta, soprattutto quando non è troppo, troppo larga, cioè ci sono quelle propagazioni molto larghe per cui i segnali si accavallano uno sopra l'altro e prende un sacco di mondezza, però quando è un po' più ristretta, per dire in un territorio più ristretto come l'altro giorno, quando abbiamo collegato Lecce, Taranto, Bari, la Puglia o la Calabria, era un po' più ristretta e lì arrivano tutti i segnali 9:20. Sì, lo so, no, di pomeriggio, di mattina, era come dire così un bordello, era pieno di gente, i segnali che si sovraccavallavano, poi c'era quello che metteva la portante mentre ci facevano di un disastro, e c'era troppa propagazione, era di quelle forti, però quando calava riuscivi un po' a farne di ex, però c'erano tutti quelli che cercavano di entrare quando stai facendo di ex. Una domanda, Riccardo, quell'apparato che stai utilizzando tu, stai utilizzando il suo altoparlante o c'è un altro altoparlante esterno? Un altoparlante esterno. È sempre meglio, così è più fedele, la voce è più chiara, non è che sia un altoparlante, è come chiuso, tipo cassa chiusa, piccolina. Sì, è piccolina, però è professionale, gli AESI. E che te l'ha fatta? Sì, l'ho comprata. Ma c'ha dei filtri, c'ha dei tasti davanti o non c'ha niente? No, non c'è niente praticamente, è una cassa, è un rettangolo, e c'è scritto gli AESI, speaker e basta. Ok, no, già va bene, allora dai, non c'è problema. Ok, cosa volevo dire? Vediamo un attimino di bianco se c'è qualcuno e poi tra qualche minuto vado a vedere questa stazione, anzi mi sa che vado adesso, sono le 21:28, sta già passando, alle 31 finisce, dai, un paio di minuti e poi ritorno, dai. E anch'io vado a vederla, ci sentiamo tra un paio di minuti. Già tanto è piccolo, alle 31, dai. Sono rientrato, chi c'è? Che avanti? Attention please, do you copy that? Ciao Fabio, e beh? Come stai? Diciamo abbastanza bene, beh. E tu, tutto a posto? Diciamo di sì, già è abbastanza chiara, però non sono queste le condizioni ideali per uscire, dai, è sufficiente ma niente di più. C'è un po' di ronzio sotto, la radio è abbastanza chiara, però questo passaggio di Apernacchiette, poco fa era un po' meglio, come mai? Troppo vicino al microfono, che cosa? L'hai visto, Robè? Un attimo, ritardo. Cos'è? Però adesso si è salito un po' di segnale, ma non vorrei che ci sia qualche altro problema, magari considerando che c'è l'antenna magari appoggiata a qualche cosa che ti prenda qualche disturbo. Poi si sente brum, brum, brum. Vabbè, ma bisogna farle bene, se ci hai la possibilità di utilizzare strumentazioni adeguate è meglio, almeno sei sicuro che venga fatto tutto a regola d'acqua? Ah, oh, sì, dai, è un'altra cosa. Di certo. Ah, questa qua sta pescando oggi. Oh, e dopo ha fatto toccarne uno che è dentro l'altro. Adesso ti sei saltato di radio. Ci credo, qua c'è l'M600, figurati. Quando riuscirò a collegare l'M600 con la stazione, allora inizieremo a parlare in maniera diversa, sicuramente. Sicuramente, c'è anche Riccardino, avanti Riccardino. Ok, Robè, ma tu l'hai vista? Sì, l'ho vista, C'era anche l'aereo sopra, hai visto quello che stava andando da Madrid a Istanbul? Infatti c'ho anche il programma per tracciare gli aerei. Ho capito, comunque saluto al master della 27. Grazie 21, abbreviato mi piace, grazie 21, salutoni anche a te, è stato un piacere sentirti. rimani sempre in radio, non fare i compiti, non fare niente, però la radio, mi raccomando, Sì, sicuro. Dimmi l'altro, vi, avanti, buon pugno, saluti anche a te. E ho appena finito la cena. Adesso fa poco devo scendere giù, abbassare, come si chiama? Ma te le porti un coglione, capito? Devo abbassare l'antenna, mi ha detto. La usare solamente quando vogliono giocare, la solleva e poi la riabbassa, tipo vela, capito? Intelligente, volevo dire una cosa a Riccardino. Riccardino, lo sai cosa mangia con piacere il cane di Pomponio? Diglielo Pomponio. La fettina del cavallo, se è un cavallo morto, dammi tutto il cavallo intero e già se lo mangia. È una fetta del tuo cane, me la posso mangiare? Ah, non c'è problema per quello. Ce l'ha già mangiato lui il cane, certo. Ciao, vabbè, stavo tutto ben sentito. Oggi ho pensato anche a Giovanna, stavo parlando con Mirko, con mio nipote Riccardino. Certo, io la sua settaccia. Già me l'ha detto, ma è che a te me l'ha piazzato tua sorella? La canna la pesca l'ha piazzato. No, non lo sento, quindi dovrebbe arrivare a bomba. Penso che sì, a Riccardino già che arriva, a Muro sono arrivato lo stesso, quindi. Sono curioso dopo fare di farlo sentire. Mentre questo Mirko è tuo nipote, sarebbe il figlio di tua sorella, così? Esatto, sì. Ed è, dice che conosce Riccardino, che si conoscono, ora sono almeno coetanei e hanno modo di dialogare anche tra loro, i più giovani. Ok, Fabio, questa sta utilizzando, che la radio è sempre quella famosa, così è, quel, come si chiamava, ricordamelo tu. No ragazzi, questo è il Tornado 34S, l'altra è la Wagner modello 510, aspetta, roba di lusso, Sì, bella radio quella, però devi sistemarla, cercare di farla uscire decentemente, se no non ne va nulla, solo esposizione. Sì, infatti, ti dico solo che ronda sotto di alternata, ma non è colpa dell'alimentazione, è colpa dell'orologio. Pensa tu cosa mi ha fatto qua dentro. Comunque vi lascio un attimino, faccio un po' di bianco perché vado a caricare le batterie, da cui ci vediamo di qui a poco, spero rimanete tutti quanti. Ok, dai, a dopo Fabio. Vai Riccardino. Mi stanno chiamando, avevo mangiato una cosetta e mi stanno chiamando per l'ultima cena. E quindi vado in carica e spero di trovarvi tutti, se no ci sentiamo domani, perché so che Roberto non ne fa ore piccole. No, cacchio, l'ultima cena, cosa sì? Non si dice mai l'ultima cena, parlo della cena, non l'ultima cena, che è successo tanti anni fa, qualche miglia e 2000 anni fa è successo, però è andata a finire male quell'ultima cena, vero Antonio? La cena della serata. Ah, vabbè, però lì, sta andando a mangiare, non l'ultima cena, non si dice mai. Ok, dai, buona carica, buon tutto, Riccardo, adesso rimango qualche minutino ancora qua, e sono un bel stanco, ho gli occhi stanchi, devo chiudere un pochettino gli occhi e rilassarmi, se no domani è pesantuccia. Ok, buona carica, saluto a tuo babbo, tutti in famiglia e ciao, semmai ci sentiamo domani. Avanti, poi se ce la faccio domani faccio un salto da te e me, tanto ne salire Fabrizio, Ricca. Sì, se tu intanto alla stessa ora, come finisci, venite più o meno alla stessa ora, perché tanto babbo ha il turno e quindi viene come finisce, Fabrizio viene come finisce babbo, quindi più o meno alla stessa ora come chiudi potresti passare, ti mando anche la posizione. Ehi, anche la rientra tuo babbo la sera? Ritorna alle 5:30, però tanto Fabrizio ha detto che viene alle 6:10, una cosa del genere. Infatti se vengo io vengo dopo che esco dall'officina, siamo verso le 6:30 a quell'ora lì. Ok, vai Antonello, tutto per te il mic. Via, d'accordo, sono tutti stanno via, a cena, che a riposarsi non c'è problema, a domani. Ok, ciao a tutti, a domani. Tanto penso di rientrare, però non troverò mai nessuno. Se provo a cercare un altro po' di propagazione. Ciao, non ti preoccupare. È doppio errore. No, mi aspetta che ti ha colato che metto le cuffie così. Antonio, ma il K ce l'hai ancora? Che cosa? Ce l'ho? Il K ce l'hai ancora? Sì, c'è un giorno che l'ho venduto, di 680 a 140. Mi sono comprato l'FT 857D. E come va? Ce l'hai mai fatto sentire? A voglia, prima della volta l'ho fatto sentire. Funziona bene. L'uomo nuovo è mai usato. L'altra volta ho usato un di più. C'è ancora una scatola, addirittura lo scontrino. Le parole che l'ha comprato, figurati tu. L'ha pagato 700 euro, l'ho pagato 500. Poi a comprarlo ci costa 1020 dollari. E cosa, il 180 e il 140 sono rimasti a Sassari oppure? Ma il 180 dovrebbe essere a Sassari, anche il 140 se non mi sbaglio è a Olbia. Stavo venduti tutti da Stefano, entrambi. Quanto gli ha dati per curiosità? 100 euro, quanto l'ho pagato io? 300, così adesso? Io a 300, sì. Se andava bene è un buon prezzo, dai. Beh, sì, quel prezzo si valeva quel periodo lì. Adesso se mi sentavo un 140 più di 200 euro non glielo, non me ne fotte per niente. Perché sono apparecchi di 30-40 anni fa, cioè, non servono a niente, capito? Mi sono preso per, gli ha reso per come ti vuoi, a modo di non stare a cambiare ogni volta, cioè, capito? Ero stufo, ogni volta che agganciavo, come si chiama, sono belli, quello che vuoi, però qui con i calici del Lener non si può usare quell'apparecchio, è una cosa allucinante. Quel Remes è Santiago 9 tutti i giorni, a un certo punto è come prendere un apparecchio e prenderci un butto dentro a casa della Mondezza. Ok, avanti Gianni. Mi sono messo in postazione adesso, mi sono messo le cuffie così non mi stufo. Aspetta se c'è qualche donato sul 10, attenzione 10 che vuole entrare, io rimango ancora qualche minuto e poi vado via. Avanti 10. Avanti di nuovo Gianni. Gianni è sparito, intanto si addormenta poi vi appare. Ci sono rimasti solo gli apparecchi normali, questo qua, la punta 7, il Cornes 4000, il terminato Marco, il terminato l'FM500S, poi l'apparecchio omologato che ho comprato da poco, ho 100 euro quasi, e ora mi rimasto un po' d'attile, qualche attaccazzata, basta, no? E come si chiama? I Bofeng. E quel qua di banda. La stazione è finita, non ne voglio altro roba. A parte un miliardo a 100 watt, boh, non voglio altro. E due dosi mettere. E una cosa, il quadro di banda che cos'è? FT857D. Guarda su eBay e guarda quanto vale. Sì, no, sto pensando a un altro tipo di radio, creavo su un'altra ancora. Ok, cosa volevo dire? Questo ragazzino è tuo nipote, ma è già tre volte entrato in radio? Ho stato solamente oggi, ho pensato a Baracchino Giovanna con l'antenna calava a pesca. E ho detto, amico, è stato detto, c'è l'età tua, ho detto, parla con il cantino, e quanto sembra, tutti e due frequentano la stessa scuola, quindi magari si conoscono pure, niente di strano, capito? Ha parlato con una mezz'oretta, vabbè, mio nipote non è che si è abituato, più che altro lui si diverte con la PlayStation, la roba del genere, capito? Era per fargli cambiare un po' la rotta, più che altro. Perché con la PlayStation solo si incoglionisce. A me non si sciolgono il cervello, questi ragazzini sono tutti questi cavolo di videogiochi, ma anche adulti, io ho amici grandi che giocano con questi cacchio in rete con la PlayStation, mamma mia, a meno la radio è più sana, diciamo, puoi fare delle conversazioni, e dice, no, dice si conoscono, sono nella stessa scuola, uno per dire prima C e l'altro prima D, adesso non so che classe erano, in due sezioni diverse ma si conoscono. Senz'altro sì. Ci hanno parlato tutti e due stasera, vabbè, tu immaginati a Mirko, primo giorno che usava il baracchino, e di evitare la cosa con le pinze, ricordi ormai già lo sai, sei girato, ma Mirko bisogna fargli fare penso una settimana qualcosa in più, si spinge. Fa anche lui la stessa cosa di Riccardino che parla tranquillamente, non ha problemi, capito? Si sbizzardisce. Come si dice una volta, micro panico, come diceva uno di Alghero, il carissimo Carlo di Alghero, diceva sempre così, micro panico, poi una volta che uno rompe il coso, l'indugi già va bene. Ok, vediamo se doppio rumore è rientrata, avanti già. Io c'era anche prima, non mi ha dato il tempo, mi stavo infilando le cuffie, se non mi dà il tempo di parlare, mi parla subito, sopra dice prima entra, dopo non entra, no, non è così, stavo mettendo le cuffie. Avanti back, siamo già di ben entrata, avanti back, vicino di casa più che altro, uno per volta, mi sembra. La prova, diciamo, io sono qua davanti adesso alle apparecchiature. Giova, dove devi fare in modo, già lo saprai meglio di me e di molti di noi. Aspetta, stava parlando un altro, se no ci avrebbe parlato uno sull'altro, tu ancora lo ci avete del segnale simile, se no non si capisce niente. Cosa hai detto, Giova? No, uno adesso di entrare sono entrato, non è che sono entrato abusivamente. Appunto, prima di chiudere dice che ha intenzione di fare QRT, avvisami, facciamo la prova adesso stesso, sono avanti alle apparecchiature qua. Comunque salutone a tutti gli amici che sono in frequenza. Ciao. Allora Giova, facciamo una cosa, così non disturbiamo il questo, tanto io tra poco sto andando via. Sei arrivato giusto, me ne stavo per andare, vai su un canale canale 20, vai. Poi accendi l'apparato e mi dici la frequenza e vedo se ti ascolto, ok? Canale 20. Adesso è scomparso. Ci sei Giova? Ciao, vabbè, ciao Giovanni, allora. Speriamo che abbia capito che si deve passare sul 20, mi sembra di no. Chi mi chiama? Ok, vado sul 20, dai, ci sentiamo, dai, corretti da parte mia, mi sposto dal tuo canale e poi faccio queste prove e vado via. Buonanotte a tutti e buon divertimento se vi dovete trattenere. Ciao Gianni, ciao Antonello, ciao Fabio e chiunque ci sia. Ciao ciao. Ciao, vabbè, ciao. Ciao, bella tussima, avanti, chi mi ha chiamato? Mi sembrava tu mio. Ciao Roberto, ho detto mi serve un cavo di alimentazione del 440. Non ho capito una, cosa hai detto? Mi serve un cavo di alimentazione del 440. Il cavo di alimentazione del 440? Che cazzo? Vabbè. C'è uno spinotto, sì. Bisogna che chiedo a qualcuno se ce l'ha. Volentieri, ti posso aiutare, se no non so come fare. Interessante lo fatto che funziona l'esporta sì. I primi sono rossi e i secondi sono neri, quindi. Esatto, i primi sono rossi e poi ci sono i due neri, perché sono quattro, giusto? Sono a coppia. Esatto. Allora, cosa non l'ha cazzata perché l'ho visti, ma non c'è problema anche a pagare 10 euro, non me ne frega niente, perché costa 5 euro qualcosa, però no, siamo finiti, capito Antonio? Più o meno sì, c'ho un abbattimento da Roberto stasera, che non ho capito perché, non me l'ha mai fatto. Ma Roberto non è di tanto Antonio? Cazzo si è attaccato a casa mia, attaccato, lui è davanti alla GBC, io sono qua. Sono curato, sono attaccato. No, ma non me l'ha mai fatto, è bello quello, oggi non so cosa. Ho sempre andato alla pari che mi sembra strano. E quindi Stefano c'è 140? Io che c'ho 140? Stefano. Stefano mi sembra c'è un 140, mi sembra che gli è rimasto. No, ne ho un altro che c'ha questo grande grasso. Quello c'è l'ufficio, la frequenza, tutto ci stava per lo. Ma per fare 140, non ti basta quello che c'hai, stato un ecco, non ti. Ma ti vuoi fare la stazione completa, ti vuoi fare? Se voglio riempire questo mobile, anche per le bellezze, tu. Ah, hai cazzo. Allora bisogna che andiamo. Bisogna che telefoni a Stefano, ti fai il sito dove si comprano quegli apparecchi là, te lo prendi, a meno che non ti fai un diretto insieme a lui a Genova, sali su, c'è la fiera e vai insieme a lui, qui in macchina, vi divertite la notte, cioè prima vi riempite il cofano di roba, poi vi divertite la notte a meno che, prima di partire. Non penso che vado a far di quelle persone là che tu metta con le piattole, tu sei via. E mica che ma le piattole, ce ne sono tante di ragazze lì, cazzo è pieno, aiuta, quindi almeno vi divertite un pochettino, fate un giretto. Bene, ma ti pare che io non mi manca niente qua, devo andare là a cercare le persone che vanno pure con l'altro, ma non si fa, no, assolutamente. Io sto parlando di andare prima a comprare tutti gli apparecchi, ma è tutto, poi se volete ve li partite, non è che io devo proprio andare di lì. Vi fate una bella, prima di entrare in traghetto, vi fate un bel giretto, volete posso dire un bel pranzo lì in ristorante, eccetera, eccetera, se fosse un casino da fare. Comunque sia, vabbè, almeno ti fai un viaggetto, guarda, se avevo avuto soldi mi sarei organizzato, anch'io, alla fiera, almeno avrei qualcosa, sei andato per dire col bancomat mi sarei comprato un po' di roba bella, ma purtroppo soldi non ne ho, quindi non ci posso fare nulla. Solo mi avessi organizzato a comprare un po' di roba bella, nuova, cioè quando vai a fare le maturi c'è roba come si deve, capito? Quello che ti volevo dire. Io ho già ti ho, e vabbè pure, ma non mi sono fatto così, adesso vediamo comunque. Gianni, ci sei? Ehi, buonasera a tutti. Ciao, già, se prendi te la tua parte. Fai, se è buona, sì, se no no. Ma ti pare che vado a giro va a fare le dici che fa carità, no, no, no. Non mi manca la patata qua. Magari vi apprendo. Se vuole per carino se vuoi. Cazzo, poi mi attaccano le pulciotti, mi attaccano, vai, vai. E non riconosci i figli. Poi ti chiamano al telefono, guarda che c'hai dei figli. Fino a dargli da mangiare. Perché da fiera c'è Antonetti a Genova. Eia, allora te l'ho detto, c'è una fiera a Genova degli allevatori, capito, ogni anno. Ci vanno tutti gli allevatori, ci vanno a raccattare un po' di roba. E costa anche poco. Ma adesso, in questo periodo? Mi sembra che in inverno, adesso non mi ricordo bene la verità, magari in questo periodo qua, devi telefonare a Stefano e chiedere, per lui già lo sa più di me, io sono parecchio adesso che non ho... Non lo so di queste cose qua, però c'è la fiera a Genova, capito? E quindi già. In via Preri, tu. No, perché sta via Preri? C'è la stazione. Aia. Poi con questo ponte volante è crollato. Ui. Io una volta a Genova sono andato e mi sono perso. Ma sono passato sopra la sopravvata, guarda, devo andare al porto, un casino. Tra l'altro l'ha fatto la polizia, le trasporti, devo andare al porto, ma dice ho pochi minuti per prendere la nave, non riesco. Ma poi sa, dice, te sì, io sono di Ussi, mi ha detto. Ah, cioè, trova cruzzato, dai, vi faccio strada io, venite a presso a me, cazzo, e ci ha portato lui. È andata bene, la vada. Ma poi già, i miei prevedono anche i pezzi battiti usati, buttati. La seconda mano, riparate a silicone. Via. Dicono sempre quando vai a Genova di non andare in quella via. Ah, io ci sono andato, forse. La prima cosa che ho fatto è stato un'oretta che dice la stazione Porta Principe, quindi. Ma poi, non passa, per carità, troppa gente rocchia, ladri, ladruncoli, prendono il tutto, pistole, attentati, passa via. A me, quando sono andato a Genova, mi ha dato il senso di una città lugubre, tutte quanti, guarda lì, tutti rugginosi, tutto il bosco mare, tutto scuro, mamma mia. Mi è piaciuta come città. Ma mi piace, io non l'ho voluta. Qua da Ciuto mi serve a fretta tipo di Rosello, Longa, poi curva, pure. Mi piace molto a Roma, ci sono stato un bel po'. A Roma sono stato 5-6 volte. Bologna è bello pure. Poi cos'è bello, aspetta, Torino, Milano, Napoli non mi è piaciuto, la verità. Firenze è bello, Venezia non mi è piaciuto, perché mi sembra triste, con quella fanguarda marcia. Io ho lavorato a Padova, ho preso l'autobus, sono stato 5 km, sono stato a mezzo a Venezia. E tu a te, dov'è che sei andato di bello? Sono sedo di Castelsardo, la Maddalena, Costa Smeralda, eccetera, eccetera. Esecutore di Nocchi. Ah, e fuori non ci sei andato? Così che sono andato la vetta. Abbiamo preso, anzi stavamo prendendo pure il traghetto, gli ho detto a quello là, ho detto, o pigliamo il traghetto, ho detto sotto a pigli in culo, ho detto, io in Corsica non ci rimango, non me ne frega proprio un cazzo di rimanere in Corsica, gli ho detto. Sono tornato, stavo ascoltando di viaggi. Ciao, ragazzi. Io ho fatto poi Trento, Canazì, ho fatto a Moena Capitello, a Marolata, poi ho fatto Rivigno, per tutte le zone montagne, dai, se te l'ho detto. Chi di fondo, giustamente, ma ne passano tutti, ho trovato, ma non l'ho fatto. E adesso ho un problema che non ci vado perché sono cavo il problema dell'ennesimo, sto pensando per le partite, vai. Avanti, Riccardi. Sì, come ho detto, stavo ascoltando i viaggi che siete andati e così ho appena acceso comunque. E tu, Riccardi, dove ci sta? Sì, a Catania. L'hanno chiesto. Ora, ne prendi già. Devo sapere dove sono stato io. Pisa, Roma, Viareggio, Firenze, Venezia, Murano, poi dove cacchio sono stato? Non me la metto manco i fili così che ci virano. Quando c'erano quei viaggi low cost, Vittori? Ogni settimana ero fuori. No, io senza viaggio low cost. Io ogni fine anno, pure d'estate, me ne partivo. Mi facevo un viaggetto per 15-20 giorni, non so solo anche Sicilia, Catania, Napoli, Isole Capri, di là, Capo di Monte, cosa si dà? Ho visto uno scippo in diretta, ma speciale, lì a Napoli, Piazza Amedeo. Questa ragazza con Vespone, questa con la moto grossa, le ha tirato a Marcello, si è corso in due in terra, arriva in macchina veloce, si vede male manente, fa cosa, cazzo, ma ha fatto uno scippo, lampo, una retta, lampo. Cazzo, io l'ho vista a Roma, uno scippato la cinese, da un marciante dall'altro, a piedi. Praticamente questa ha scippato la donna, gli ha lanciato la borsetta all'altro che era nel marciapiede, è scappato a piedi, l'hanno inseguito i passanti, l'hanno investigato e quello lì gli ha detto lasciatelo stare, interessate che torni la borsetta. Ha trovato la borsetta e l'hanno lasciata andare. Poi a Roma ne ho visto diversi, ho visto una moto attaccata al palo per la ruota. Dopo sono passato e c'era solo una ruota attaccata, la moto l'abbiamo inaugurata. Non ti ho detto la città migliore che ho visto, Sirmione, sono stato 3 volte a Sirmione, il lago di Garda. Ma io sono stato all'Isola Maggiore e tiro le 3 isole sulle Zuppette, Isola Bella, Isola Madre, Isola Pescatori. Io ho girato tutta l'Italia, si può dire, all'estero non ci sono mai andato. Che ti posso dire, quando vado in pensione vado a Carrefour e stare 2-3 mesi, ma più una pochina di 2-3 mesi. Anche se abbiamo andato posti bene, dai, c'è Capodetta che ti dice, a me piace moltissimo Capodetta, ma guardiamo altri posti perché... Allora Tony, se ti fa un altro viaggio vai a Sirmione, poi mi dà la risposta, bellissima città, certo, guarda, bella veramente, con lago, i cigni, di tutto e di più. Sono stato a Sirmione, Limone, Peschiera del Garda, quando sono andato lì sono stato a Cozzo, a Perugia, insomma ne ho fatto abbastanza di giri. No, ma io non li ho fatti solo quando c'era il viaggio low cost, però quando c'era il viaggio low cost ero ogni settimana fuori. Ti sto dicendo, andavo a Roma, Pisa, la mattina partivamo alle 7 e tornavamo la sera verso le 10:30 così. Ma io sono stato anche a Pisa e a Poggibonsi. A Poggibonsi mi ricordo particolare che vicino a Pisa. Ho mangiato ristorante, a due avevo chiesto le patatine fritte, cosa la fine. Mi sono mangiato qualche patatina, mi sono tirato, ho sentito un piccolo rumore, poi si vuole dire che ho fatto io, ho fatto la porchetta, non mi ricordo. In giro il mio piatto non c'era più, ho fatto sempre una televisione, ho fatto la pizza. Mi ha capito, scusa, ma è per dire che ti ha fatto, sono scappato, sto facendo la pizza. Ma come cazzo pizza? Ah, raga, ho battato che ho già fatto. Ma ti la mia di un piatto che è stato male, se avete visto. Cazzo, ma un servizio di veloce, che cazzo è? Boh, cosa hai preso? Antonio, a te che queste disgrazie ti sono capitate, ma non pure si comunque. A me mi è successa una cosa del genere in un bar. Stavamo bevendo una birra e a un certo punto c'eravamo questo tipo vicino che si vedeva che era diviso in mezzo batti, mezzo gotti. E non mi ha preso il bicchiere e si è bevuto la birra mia. detto, scusa, ma quella è la mia. No, quella era la mia. Ha detto il cameriere, guarda che tu hai finito di bere il bicchiere, te l'ho ritirato io, era del signore la birra, adesso gliela paghi tu. No, io non pago niente, cosa ho preso, mi ha rimesso là, ha detto vabbè, lasci perdere, non c'è problema. No, aspetti, mi ha rimesso la birra e l'ha mandato via. Comunque anch'io ho subito uno schifo, mi hanno rubato la roba a Genova. Vabbè, no. Sì, questo ho fatto, praticamente stavamo passando praticamente dall'acquario di Genova ad andare un po' più nel centro. Questo mi apre lo zaino e mi prende il telefono senza accorgermene e scappa subito via, mai più ritrovato. E cosa ce la fa il telefono? Se tu lo blocchi non lo puoi usare. Lo so, no, il problema è che basta che cerchi su internet come riavviare un telefono anche se ha la password, già c'è il modo. Sono furbi, ma la sorte, bisogna stare attenti, lì a Napoli sono manoleste. Allora sei andato all'acquario di Genova, invece io sono andato a Genova, volevo andare all'acquario e mio cognato che non ama gli animali mi ha detto no, non ci vengo io, non ci andiamo all'acquario, cosa ci andiamo a fare a rinchiuderci, questo e quell'altro, non ci è voluto andare. No, è bello comunque, ci siamo andati, era gigantesco, c'era un sacco di pesci, poi potevi dare a mangiare a un delfino e queste cose, no, era bello invece la corsa di Genova. Io sono stato a Sirmione, c'era lo spettacolo dei delfini, tu devi vedere quanto erano belli, mamma mia, quanto mi piace i delfini, c'era un tatuato anche nel braccio dei delfini. Sì, ho capito. Comunque, volevo dire che comunque io sono andato due volte all'estero e non mi piace molto, sono andato in grandi città e troppo affollato, tipo sono andato a luglio a Parigi, è troppo affollato, pieno di gente, non c'è spazio proprio zero, non c'è spazio per niente, tutte le persone sono attaccate. Sì, è molto... Sì. Molto trafficata come zona a Parigi e poi c'è sempre paura degli attentati, via Parigi è un casino, ogni tanto ci sono attentati, mamma mia. E poi dove sei stato fuori all'estero? Già sono stato praticamente, poi sono stato anche a Barcellona, all'acquario, molto bello, non ho mai visto acquari così grandi. Comunque sì, a Parigi è una tortura, cioè praticamente abbiamo fissato una casa, comunque vabbè non c'è nessun problema. E la sera prima che ce ne andavamo stavano facendo una festa fino alle 5 di mattina, musica a palla, sembrava un attentato quasi, che sembrava sparando, e invece era solo musica a manetta per tutta la via. Oh via, yeah. Non mi hanno lasciato riposare, insomma. Io, il mio sogno del cassetto è andare soltanto un posto all'estero già. Dove? La grande mela. Ah, io sono stato diversi posti, però all'estero mai, con l'abilità, non ci sono mai stato. Diversi posti in Italia, ma all'estero no. Mia figlia c'è a Bologna, mia figlia abita a Bologna, tutto quanto porticati, bellissimo. Sì, sono stato a Bologna, aspetta. Ci sono parecchi orecchioni però, lo scaro non è patinato, guarda. Ma sinceramente io prima tappa la voglio fare a Londra, perché a Londra c'è un carissimo amico mio CDXGP che è partito per cercare lavoro, che già la bambetta 25 anni e quindi lo vorrei trovare. Lui ormai parla anche l'inglese perché già parlava prima in inglese, lavorava più di loro amici via Roma, non accorgo. E quindi va bene, poi davanti a alcune sole, il padre addirittura lavorava a di fortuna lì, lei. E lui si chiamava Diego. Comunque anche il cassetto lo stavamo prendendo, ma hai sentito la città di Calgary? Non ho capito. Anch'io un sogno nel cassetto, dove andare, l'hai mai sentita la città di Calgary? Calgary con la L, Calgary. No, non l'ho mai sentita. Ci abita mio zio, è vicino a Toronto. No, non sono mai stato. Lo so, un pochino fuori, però ci vorrei andare, ho visto che è una bella città. Avevamo trovato anche il biglietto low cost, il problema è che si è messo il coronavirus. Ah, ecco. Come al solito, no, c'è sempre... Anche mia figlia doveva venire qui da Bologna, non è potuta venire. Purtroppo la Pasqua ce l'abbiamo fatta da soli. Comunque già, io, a prescindere dal fatto che sto qua, in poco tempo che mi sono messo in una stazione, pochissimo tempo, ho già quasi una stazione completa qua, c'ho un bel po' di roba. È fatto bene tu, se poi hai fatto bene in San Luigi, anche Riccardino ha fatto Luigi la stessa cosa, in poco tempo, poche settimane che c'è, fa già la stagione va. Basta avere il chirolire, quando c'è quello c'è tutto. Basta avere la moneta. Poi ripeto, questo è stato onesto da Cagliari, me l'ha mandato, guarda, per essere spacchettato. Cioè, troppo tranquillo, nuovo, va benissimo. Faccio se col microfono non male. Sì, devo attaccare stare più 3.000 a tavolo, però credimi, non ho tempo, andare poi, dopo cena, sono stanco, mi appoggio al letto, anzi dopo il baracchino, quando l'ho accesso, non aggiungare nulla, dalla parte all'altra, mattina a sera, non sto mai fermo, e compra qua, e compra là, sto facendo mobili, poi, se vuole anche un'amica mia, se io lo faccio, mobili, ho comprato già le tavole, mi sono fatto la circolare per tagliare le tavole, un casino di fabbricatura ciò. Ehi, vabbè, così passi il tempo, quando sei persone sai cosa fare. Quello c'è stato dubbio. Però ripeto, boh, adesso non dico non c'è tutta la sta, boh, ma questo qua è come un ricco qua. O non gli hai su, non è che sì. C'è tutta la sta, ci hanno già tutti i componenti isolati, non è stato le parti. No, molto fisso. Però lo voglio sempre il tipo a stazione fissa, non le voglio quei piccolini, non mi piacciono. Ma no, a me, quelli più ristretti con la mano un po' grande. Eia. E tu dica di, quale c'hai? Dalla che voto scommetto? È positivo, comunque gli hanno detto di non nominarlo troppo e quindi il Sappa gli hanno detto di nominarlo. Va. Lo sanno tutti cosa c'hai, ma... Vabbè, boh, lo so, comunque. Va bene, sì, comunque ho il 430 con il MC60, che pensa che non è amplificato perché non è attivato il circuito di amplificazione, quindi è come un microfono normale. E quanto è il chilolire te l'avevo dato? No, è stato prestato, poi me ne devo comprare uno per conto mio. Comunque già, io ne ho visto anche di 440 a seconda mano, 450 euro. Ti dico, scusa se intervengo, Tony, è meglio non prenderlo il 440, me ne hanno parlato male perché lo devi accendere tutti i giorni, è meglio il 430 che funziona molto meglio. Al posto delle frequenze metto si pongono dei punti e ti fa il circuito. E anche secondo me è meglio il 430 che il 440, ho guardato tutti i forum e consigliano il 430. Ma il 430 è mica stesso, perché io su internet non l'ho trovato. Ma come non l'hai trovato? Ne ho trovato a vagonate che ne vendevano. Se ti interessa ti mando anche un annuncio, ne ho trovato un bel. No, io penso 430, capo. Hai scritto TS430S? Certo, che il 440 è TS440S, come 430. Ho capito, boh, perché io non ho trovato un sacco di 430 che ne stavano dando. Io mi sono già messo d'accordo, comunque me ne prendo uno per conto mio. Però se vuoi ne ho trovato, se te li puoi mandare a Gianni, li mando io a Gianni e poi te li manda lui a te. Comunque già io se ne trovo un altro di questo qua gemello te lo prendo. Di che cosa? Di gas? Sì. E che la terra è? Sì, ma a me piace troppo, è ben fatto, c'è tutto là. Non so mai, domani ci brucia, mangio un altro. Sì, ne ho trovato uno subito, ho scritto 430S, ne ho trovato subito uno. Sì, dopo la bacchierica lì. Ha ordinato Gianni, ha ordinato un commutatore d'antenna 3-5. Sì, ma ti conviene prendere il turbo allora, quello turbo che esce con 100 watt. C'è Begalacci. Galaxy turbo esce con 100 watt, però lo paghi di più, lo paghi un bel po' di più. Ma c'è prestazione fissa? Come questo, è uguale al Galaxy Saturn Echo, solo che c'ha i tasti, con le memorie, con tutto quanto, capito? Ma c'ha anche cosa dei canali e anche frequentimetro? Sì, sì. Allora sì. Ovviamente sono con frequentimetro, però già odio io queste cose qua. Per esempio, come... non so se il 140 cosa cavolo era, perché voto che non c'aveva canale solo 5 cm e a me ha sempre la frequenza almeno per la palla della tabella. No, no, c'ha canale e frequenzine. Sì, sì, se no c'era tutto. E poi il turbo, il Galaxy turbo, cercalo. Sì, ma lo fanno ancora? No, ma ci sono le persone che ce l'hanno e che lo vengono. Esposo. Una volata veloce veloce verso l'internet, ecco, lì che se la ti viene per te, ti prendi il capito. Sì, ok, va bene. E comunque, te l'ho detto, secondo me il 440 è un po' così, vabbè, sono scelte e che lo dovresti usare tutti i giorni. Sì, c'ha quel difetto, l'ha detto anche Claudio che c'ha quel difetto lì, si formano i puntini dove c'è... frequenzive, ecco, escono i puntini al posto dei numeri e devi cambiarli, come si chiama? Vabbè, ci siamo capiti che cos'è, non me lo ricordo neanche il nome. Il VCO. Il VCO. E quindi è meglio il 433, poi il 433 esce bene. Sì, esce bene, adesso con il 430 e penso che sta andando meglio che con un vintage. Sì, la voce è chiara, però non ha quell'amplificazione del keyboard, capito? Ma che cos'è il vintage? No, questo che stai usando non c'ha l'amplificazione che usa il keyboard, perché c'è quel microfono che non va bene, capito? Lo so, infatti è su amplificazione off, spenta. Che infatti esce come un microfono normale, dai. Però almeno posso stare un po' lontano dal microfono, non mi devo attaccare. Sì, quello sì, la voce è chiara, quello che vuoi, ma non è come può essere una voce prepotente come la usa Claudio, ecco, per intenderci. Certo, tu non puoi avere la voce di Claudio perché sei un ragazzino, ma l'amplificazione si dovrebbe sentire. Lo so, è questo il problema, infatti come hai capito, se hai sentito a Roberto che me ne devono portare uno nuovo, le MB+5 per il Kenwood. Va bene, dai. Va bene anche le MB+5. Sì, hanno detto che va bene, l'hanno testato prima prima che me lo diano e hanno detto che funziona benissimo con il Kenwood, è una variante dell'MC60. Sì, non c'è problema, addirittura gli fanno anche l'attacco per lo spinotto che fa elettrico con la corrente che c'è nell'apparato, non c'è bisogno manco di batteria. Ma in quale? Quale non serve la batteria? Allora, normalmente non mi dico più 4 più 5, vanno con la batteria, invece Fabrizio gli fa... gli mette un filo in più e praticamente lo collega alla corrente dell'apparecchio, capito? Quindi non c'è bisogno di batteria. Capito, va bene. Perché l'MC60 è collegato così, prende la corrente dall'apparecchio, capito? L'apparecchio gli manda la corrente e lo alimenta l'apparecchio. Invece se tu lo dovessi mettere un altro apparecchio tipo un baracchino, le MC60 devi mettere la batteria. Sì, ho capito, va bene. Tony, sei tornato? Sono qua. Ok, allora riprendi tu. È tornato il servomotore? Proprio dell'Axe Turbo niente già. No. Questo mi dà sempre e grazie a Saturn Echo. No, devi mettere Galaxy Turbo. Ho messo Galaxy Turbo e mi dà le Galaxy Turbo. sono uguale al mio, 3, 3, ti l'ho pagato. Riprendi che lo cerco. Anche un attimo, lo cerco per questo. Io ho visto per apparati, c'è da 150 euro, di 100, ma non è venuto tutti i soldi. Per avere una cosa, per la figura nostra, per dire qualcosa, ma cosa c'è alla mano, sì. Spendere 300-400 euro, massimo, va bene. Non spendere niente, non spendere niente. Per belletta, eccetera. Ma oggi devi comprare per belletta. Ma mi sono fatto un bel numero, cosa. Ma che ci sta tutto come ho avuto io praticamente. Mi sono fatto io un disegno. Poi mi sono fatto un quarto, sono fatto da brico per legname. Lo sono costruito, però piano l'ho fatto. Adesso voglio riempirlo proprio. Sì. Non so più quanto gli ho speso. Oggi è arrivato il Cobra a 350 euro, fatti un conto. 350 euro a te? Sì, una radio solo. In una settimana ne ho speso già quasi 2000. Vabbè, io mi do la pazienza del figlio del cefere, sono un apparato nuovo, poi tra l'altro altro lo fa fare. Vabbè, io sono rimattore, ho tutte le radio HF, le V, le U, tutto base, poi... Sono collezionista vintage, quindi mi piace averlo. No, questo è un Cobra, il modello da 200 watt. Non so se mi hai sentito il radio, col Turner da tavolo, ma è una bestia, una bestia. Vabbè. Ma io non devo adattarmi con il cacchio del Turner più 30 da tavolo. C'è da giocare, perché ripeto, con tante cose che sto facendo, mi hanno ordinato anche con Cristo, anche amiche, sono incasinato, c'è un tavolo enorme che ho ordinato, ce l'ho tutto in veranda, non so che devo pagare. Non so se mai ti compro la circolare dentro dal banco, quando, se quello che c'ho non mi piace, sono piccola, avresti grossa. Vabbè, tu hai mollato, io ci sono da 75 in radio. Sono andato radio amatore, quindi c'ho tutte le radio HF che mi servono, le V, le U, tutto quello che serve, però mi piace avere anche delle radio particolari. Oggi è arrivato il Cobra, che ce l'abbiamo in due solo in provincia di Sassari, quel modello lì. Poi gli altri sono tutte vintage, però di buona forma. Ciao Riccardino, cos'è che sta facendo Gianni? Cos'è che devi mettere l'M60? Dove devi mettere? No, che l'M60 lo devo togliere e devo mettere l'MB+5. Te lo farà stesso come l'MC60 con l'alimentazione diretta come c'ho io, non ha bisogno di batteria sicuramente. Sì, me l'ha detto Gianni che aggiunge un filo e così praticamente aggiunge un filo e non c'è bisogno di batteria. Cosa devi aggiungere? Ma quale filo devi aggiungere? Quello che sta dicendo Gianni. Ti metterà il cavo completamente a 8 diretto dalla radio, quindi non hai bisogno di aggiungere nessun filo. Quale filo devi aggiungere? No, dentro aggiungi un filo che lo collega all'apparato, al baracchino, come lo vuoi chiamare, al baracchino, e così prende l'alimentazione del baracchino, quello voleva dire. Non è così, non è così. Si toglie, se ti ha detto che te lo sta cablando, quindi elimina il cavo, lo spiralatto, te ne mette uno senza essere spiralatto a 8, ok, perché quello è a 4, anzi a 5 compresa la calza, te ne mette uno a 8 e ti fa il connettore a 8 col cablaggio a 8, direttamente dal microfono. Quale filo devi aggiungere? Ma non col cavo suo originale, il cavo suo originale non va bene, deve cablare un altro tipo di cavo. Uia uia, andavo in paro più bello, ragazzi. Comunque ti mando la foto di quello che c'ho io, così capisci cosa deve fare Fabrizio. Io ce l'ho, l'MB+5 cablato da Fabrizio a 8, ma non col suo cavo originale spiralato, non va bene quello. ci vuole un cavo schermato a 8, a 9, a 10 cavi, dove lui fa il cablaggio dall'interno sino all'esterno ad arrivare alla radio con 8 pin, capito? Sì, ho capito, va bene. Comunque ti saluto Claudio, che è rientrato, non ti avevo salutato prima. No, no, io sono rientrato a spegnere la radio, ok? Quindi vi saluto, proseguite e ci sentiamo un altro momento. Ciao a tutti. Oh Claudio. Dimmi tu. Non è per caso c'è qualche cavo di alimentazione del input 10 e 440? No, io ho solo il mio e basta. Anzi va bene, ne ho tre perché ho il 430, il 440 e il 140. No, non li vendono quelli così. Devi ordinarlo da chi fa queste cose. Mi pare che era Media Globe. E vende i cavi Telecab, tu dici perché radio ti serve, lei te lo fa, capito? O Icom, o Kivo, o Iaesio. E io vado su internet, ce l'abbiamo terminato, non ce ne... Si chiama, ti sto dicendo, la Media Globe. Chiama in Media Globe e dice mi serve il cavo di alimentazione di un 440 e loro te lo preparano e te lo mandano. Media Globe? Sì, Media Globe. Ok, grazie, sono. Perché così non li vendono. A me me l'avevo ordinato Vittorio Giove.